girandola. Il zenzero e cannella si impigrisce sulla punta della mia lingua, mentre lei, fra le mie labbra, rimane aggrappata all'ultimo sì, appesa a quel gancio come carne, esposta, appena macellata. Si contorce nel tentativo di non lasciarsi cadere, in un bagno caldo di torpore e sonno che sempre l'artiglia dopo l'amore, la risucchia fra le sue spire, abbracciandola, cullandola, la conquista, strappandola alle mie carezze. Così, svolgendo e succhiando al centro della lingua i petali della girandola, la guardo allontanarsi e donarsi al nuovo amante, più quieto di me, più docile di me, più affidabile di me che la amo e tormento al tempo stesso. La guardo e di lei altro non vedo che sapori, organi caldi che emanano effluvi. Mi corteggiano il naso. Chiudo gli occhi e aspiro a lente volute il rossore delle sue guance di sole. Zampe di ragno, le sue ciglia brune che camminano sul mio collo indifeso quando mi abbraccia e tiene la testa appoggiata per un attimo, che si dilata in pace e contrae in tempesta. Odorano di terra rivoltata, di semi dimenticati nascosti nelle zolle in attesa della pioggia marzolina. Mentre la sua bocca si scinde in filigrana di frutta e pane scaldato nel forno, disegna nello spazio fra noi un sorriso malizioso e bambino, come le sue calze colorate negli stivali di pelle nera. Appoggio la mano sul suo seno sinistro, sincronizzo al suo respiro il mio desiderio, ricostruisco l'agrumento del suo capezzolo e la menta del perimetro del suo ombelico leggermente sporgente, rosea collina che degrada nella invitante pianura del suo ventre, su cui faccio aderire il mio orecchio curioso, appena sopra la linea pubica. Le sue viscere cucinano gorgoglii di pomodori maturati al sole e origano e maggiorana arrampicati su muri roventi, i muri roventi della nostra fuga estiva. Chiudo gli occhi, palpebre invisibili, non come le sue, azzurrine ostie che avvolgono la mandorla e il miele dei suoi occhi adagiati nel sogno del sonno. Rivivo l'entrare lento della mia lingua nel suo sesso di mela e chiodi di garofano. Mi addormento per qualche minuto con lei che agita di un tremore cullante la coscia sinistra. Cosa stai pensando? Il mosaico della sua voce sparge tessere colorate sulle lenzuola arruffate. Mi sollevo, i suoi occhi annegano nella pentola delle mie incertezze. Penso che è tardi e che mio marito mi aspetta. La frase riempie il vuoto della stanza, semplice e reale, non meno vera delle parole che galleggiano dietro le mie labbra ormai chiuse, sigillate dall'immagine di ciò che lei è per me. L'amore è giusto, l'amore è giusto, al momento sbagliato. Thank you. passato. Scultura di scaglie e ombre. Non facevi bellissimo. E ripasso il paesaggio delle tue imperfezioni. E la mia voce scandita dal primo dei tuoni. Se non ti svegliassi mai, potrei non piangere più. Cristallizzare la tua forma nel fondo degli occhi, riscaldarla fino a sciogliere, imbibire le guance, le labbra, la lingua, lasciarti evaporare, estinguerti in un soffio tra le dita. Il temporale nella pancia della notte reclama il suo sacrificio e il temporale nel mio ventre reclama te. Della mia immagine. Ti prendo per mano. Affondiamo nella notte di pietà, in giardino sotto di noi. Si apre in mollezze bagnate. Si allarga il nostro adagiarsi. E il tuo corpo si confonde dentro del mio. E il mio nel corpo della terra. Schiumose risalgono le braccia e le cosce si aprono sulle mie profondità finché tu e la terra vi incontriate semplicemente. Semplicemente ti amo. Quel che resta. Solo pioggia. Il bambino lupo non dice niente. Avrebbe parole se solo la voce non rimanesse impigliata nelle lacrime gommose. Una cosa bitorzoluta e amarognola in fondo alla gola che deglutisce dolorosamente raccogliendo cucchiai di saliva. Accavalla le sillabe nella testa, cercando di trovare il senso giusto da mostrarle nello specchio di quegli occhi allungati, che la donna non può vedere perché ha la testa fra le mani, capelli scuri infilati tra le dita contratte. Non sembra che lei pianga, ma il bambino lupo non saprebbe ascoltarla. Troppo rumore dentro perché lui possa distinguere. Il cuore gli tuona nelle orecchie, scroscia come un temporale di lampi vicine e odore di asfalto bagnato. Non può chiudersi in casa al sicuro fra le braccia della donna perché il tumulto è invischiato alla sua pelle come sciroppo di amarena e la donna è così remota nei pochi metri che la separano da lui. E niente è più al sicuro. Il bambino lupo sposta il peso del corpo prima a destra, poi a sinistra e ancora a sinistra. Non sa decidersi, scappare, restare o semplicemente non esserci. Confondersi con il gusto denso e salato dell'abbandono, Sparire è forse essere già grande, sapere cos'è giusto fare con tutti i peli infilati nei posti loro assegnati, le braccia, le gambe, il pube, le ascelle, il petto, le guance, avere una voce da uomo e... E allora avrebbe qualcosa di caldo e rassicurante da dirle, e la distanza fra lui e la donna non sarebbe infinita. Due passi da uomo e la porterebbe via da quel divano con le fauci aperte, pronte a sbranarla in un buio di cui il bambino lupo ha ancora paura. Il bambino lupo adesso piange piano e la sua piccola voce si riversa dentro la pancia in un gomitolo di strade sbagliate. Direbbe parole se solo ne avesse imparate di abbastanza importanti, e invece si lascia cadere sul pavimento, si lascia inghiottire dalle piastrelle fredde, raccoglie le gambe fra le braccia e pensa che se solo avesse imparato direbbe: ti voglio bene. Parole che hai lasciato stanotte nella mia bocca hanno cambiato sapore lontano da te. Si sono mescolate al pane e la marmellata della mia colazione, al latte caldo che ho condiviso con l'erba cristallina del mio giardino, alla canzone che ho spezzettato e lasciandomi scivolare verso il giorno. Sono diventate salate, essiccandosi al sole della mia giornata fra la gente, addolcite nel silenzioso sorriso che ho caramellato di rossetto e passate di lingua, ruvide sul tuo viso non dormito e leggere sul mio, luminoso di stanchezza. E le ho portate appese al palato. Fammi solletica, su cosi grappoli di suoni infilati a tuna, annodate fra i denti per trattenerli. Trenini di lettere sulla curva della mia guancia. Si fermano, ripartono, corrono, accelerano e rallentano. Le parole che hai lasciato stanotte hanno inseminato la mia bocca. Nemmeno le udite. Non poter far l'amore con te. Togliere i guanti. Toccami la mano. Innestare le mie dita nelle tue. Farsi attraversare dal pomeriggio invernale. Colare sul collo capelli di nebbia, lasciarsi parlare dalla tua voce, mi manchi, sottrarsi a sguardi estranei, diventare un angolo di buio, parla, lasciarsi penetrare dal suono delle tue parole, mi manchi, abbandonarsi al giro di valzer della tua bocca, offrire gli occhi al tuo profilo attristato, mi manchi, contemplare cimiteri di frasi morte nella gola, sopravvivere al mi manchi, farsi portare via dal tempo scaduto, consolare le mani orfane di te nei miei guanti nuovi. Non poter fare l'amore con te. Rivivo come in un teatrino infinite volte la stessa scena. quella scena. Un banale frammento di vita quotidiana. Una comunissima serie di io ho detto, lui ha detto e allora ho risposto e ancora non trovo il dito che ha premuto il grilletto. Sospetto che il grumo di sangue grezzo dentro di me, il mio istinto, abbia percepito il pericolo un istante prima. La bambina, allerta, nascosta nel sottoscala, si è ritratta ancora di più, scivolata, buio e silenzio. Se sto buona, finisce subito. Il mio corpo di adulta è rimasto immobile, assorbendo tutto il colpo del primo schiaffo in primo viso. Immobile e incredula, sono rimasta ferma. Devo crederci, sta accadendo, è già accaduto, è già reale. Ho incistato nel passato prossimo. Il secondo schiaffo conferma la violenza del primo, ma meglio se è stato. E si sa, la pratica rende perfetti. E lui è certamente un pignolo, un perfezionista del genere. Il labbro spaccato mi guardava allo specchio, vantandosi della sfumatura di blu e porpora. In natura hanno solo le facce che non sanno proteggersi. Come la mia. E poi forse mi ha stupito il suono del suo palmo sulla mia pelle. Come quando ti tuffi, sbatti la pancia e ti manca il respiro e pensi che morirai. Tranne che non ho pensato che sarei morta. Non ho pensato affatto. La coscienza ha tremato. Scavato un angolo tranquillo, accucciarsi, giocare con le dita delle mani, un giardino zen in cui seminare pace. E da lontano la sua voce, un gancio gracchiante, smettila di fissarmi così, così, così, e come? A me sembra di non averli mai aperti sti cazzo di occhi. Infilato nella pancia a sranarmi le ansie, mentre l'intestino che si accalcano in cerca di fuga. Certo che sto fissando adesso, e fisso così bene da meritarmi il terzo schiaffo. Mi manda a terra in ordine di culo, gomito sinistro, orecchio sinistro. Così mi sveglio dall'incredulità. Mi rannicchio e prego di diventare pietra. Madre Terra, ti prego, prendimi dentro di te. Non lasciare che la bestia mi mangi. La mia misera preghiera si perde nel cemento freddo su cui sono distesa. Un calcio alle reni mi ricorda che sono carne senza bocca. Non urlo. Le pietre non urlano. E gioco al facciamo finta che adesso smette e ritorna tutto come prima. Lo specchio si compiace del suo riflettere mentre lo guardo e non piango. Adesso come Alice ci salto dentro e di là lui non esiste, non è mai esistito. Non come di qua che sento la sua voce da orco che mi chiama. Lo so che ha voglia di scopare, ha sempre voglia dopo. Voglia di scopare. Prima di lasciarmi nell'angolo del letto, dormire il sonno del giusto. Grecia. E allora mi sono presentato alla polizia dicendo che ero clandestino. Era 3 giorni che non mangiavo, avevo fame. Mi hanno messo le manette. E mi porgo i polsi come se i segni fossero ancora visibili sulla pelle sottile. E io guardo le sue mani. Ma mi hanno messo le manette, capisci? Sono stato in cella con altri clandestini come me. Tace, guarda, per vedere che fumore fa, pensavo in prigione. Dopo qualche giorno ci hanno rispedito a casa. Sai, ho pensato che mai più sarei uscito dal mio paese. Si avvicina e mi abbraccia da dietro e mi bacia sul collo. Io continuo a pelare le patate per la cena notturna e la sua prigione mi penetra nella schiena come un flusso di sbarra e umiliazione. Penso all'inversione di ruoli che questo incontro mi ha portato e usurpata dal trono degli onorati. Quest'uomo usa la voce come la uso io, modulata e malleabile, sfumata e raccolta in legni culturali. La recita con l'espressione di quegli occhi oscuri affogati in desiderio e privazione. E la vive con la camminata di chi conosce i palcoscenici accidentati. Nudo nel disordine della mia cucina, continua a colmare la distanza della nostra stranità. Ha sulla testa il cappello della mia Grecia, quella dei turisti ricchi. La sua bellezza mi commuove. Metto in forno il pollo con le patate e apro il vino. Assaggia. È spagnolo. Di nuovo tace e mi abbraccia e ci baciamo scambiandoci il vino. E allora come ci si sente ad avere un'amante italiana? È la rivincita degli offesi. Sorride, soddisfatto, sorride soddisfatto mentre lo dice. E poi mangiamo parole carne, risate e patate croccanti. Lui ha fame. E io, che conosco i digiuni forzati, so cosa mi ha portato qui. Mangia come se pensassi di non mangiare più, e fa l'amore come se pensassi di non farlo più, e mi guarda come se pensassi di non poter guardarmi più. E io, che ci sono cose che non avrei fatto mai, non c'è nulla che non farei adesso. So dove andare. Per una che ha fatto 4 traslochi in 3 anni, che si è confusa infinite volte sulla strada di casa, questa è una frase quasi senza senso. Lui è la mia strada di mattoni gialli. Thank you. Nuda. Il pube è inchiodato alla brezza mattutina ad uno schiocco di lingua, non la mia impacciata dal risveglio lento. Ho scritto un blues. Lo dice nuda, in piedi, con i pollici infilati nelle creste iliache, tono allegro, vagamente di sfida. Hai scritto cosa? Ho scritto blues. Apertamente di sfida, allegro ma non troppo. Cosa ne sai tu di blues? E quanto basta, e poi il blues è un canto dell'anima e la mia anima canta parecchio. In lontananza, rumori di armi che si affilano. Su questo non c'è dubbio. Cosa voglia dire, non lo so. Mi sembra solo che suoni bene a questo punto. Le armi si avvicinano. Potresti scrivermi la musica. Va bene, scelte le armi, posizione d'attacco, in guardia. Ehi, anima canterina, io sono un compositore, musica classica, ti dice niente? Poi ho la prima del concerto martedì, ricordi? Certo che se lo ricorda, è proprio per questo che ha scritto un blues, il primo blues della sua vita, proprio adesso. Dai bambina, vieni qui, lei sfugge alla mia presa, allontanandosi quel tanto che basta, adesso nemmeno una lingua volenterosa la raggiungerebbe, ed io, che ho voglia di far l'amore, rimango letteralmente a bocca asciutta. Voglia forse no, così un vuoto domenicale da colmare. Vorrei lasciarmi fare, ecco. Ma dopo il blues non c'è storia per oggi. Lei si appoggia allo stipite e mi guarda. Aspetta qualcosa, qualcosa che non so dire o non voglio dire. E così mi infilo pigramente in una delle tante frasi sbagliate a caso. Dai, vieni qua, non fare la stupida. La sua immagine rose riccioli rimane appiccicata alla porta ancora un po'. Lei se n'è andata senza dire niente. Mi alzo senza averne voglia dal letto. Ho un crampo alla gamba sinistra e zoppico in traversata solitaria fino al bagno. Non si vedono. Allucinazioni olfattive serpeggiano in bevute di verde. Odore di rane saltella tra le vibrise del naso. È ancora presto per non attendere più. Ti ho scritto una lettera. Avrei dovuto telefonarti. L'ho fatto. Ho spezzettato frasi seminandole, briciole di pane sul sentiero. Piove dentro di noi e li porta via. Come stai? Mi chiedi tu. E la tua voce è dolce, una colata di baci sulla lingua. Battuta e vinta, non posso dirti ciò che sono veramente. Non potrei infilare un coltello fra le tue parole, scardinare i tuoi silenzi con la verità, spezzare con le labbra il filo che ci lega e riannodarlo dove tu non puoi sentirlo. Così aspetto qua, seduta sul cornicione. È stretto, si sta malapena, come un uccello abnorme, gambe pezzoloni, piedi gettati nel vuoto. Come quando mi lanciano l'altalena. Ricordi? Occhi chiusi, respiro decapitato nella gola e sempre le tue braccia. Così aspetto qua. Il viso disciolto oltre la città. Ascolto le risaie, un battere ritmico in fondo ai fossi. Un frullo di barba, una rasata passata sulle guance la domenica mattina. Non più. Adesso è tardi. Comincia a scendere. Alcuni pensieri non dovrebbero essere pensati. E qualora pensati, non dovrebbero essere detti. Inventarsi una voce che sia pelle per i corpi dei pensieri in fila sulle corsie delle terminazioni nervose mentre aspettano di sgusciare dal buio tunnel della gola. Far tintinnare l'ugola come un campanellino. Pensieri come cespugli rotolanti sulla lingua desertica e carambolati nel cerchio luminoso delle labbra, tuffati nella piscina d'aria che ci separa, nuotare fino a te, aggrappati al bordo salvifico delle tue orecchie, travolti a tradimento dai filtri della tua comprensione. Non si dovrebbero pensare alcuni pensieri. Qualora pensati non dovrebbero essere detti, e qualora detti mai dovrebbero trovare casa tutti insieme su un foglio, scritti a mano, nemmeno sterilizzati da lettere automatizzate, lasciati così, nudi e riconoscibili, appartenuti a mani e dita incerte, inesperte, quando ancora la scrittura era un popolo straniero da conquistare, colonizzare, meticciare in anni di accoppiamenti selvaggi e frettolosi, amati e voluti per qualche lettera particolarmente esotica, come fu la Z per me. Alcuni pensieri dovrebbero essere abortiti all'atto stesso del concepimento. Qualora lasciati vivere, non dovrebbero essere allevati in culle di parole dette ad alta voce, declamati o coraggiosamente sussurrati. Qualora allevati, non dovremmo lasciare che si innamorino di pezzi di carta randagi che promettono di fare di loro pensieri onesti e per bene e poi li vendono o peggio regalano ad occhi di passaggio. E una volta innamorati e delusi, perché renderli schiavi di innamoramenti reiterati? Non dovrebbero essere mai letti, recitati, indossati di nuovo e ancora per un pubblico non pagante. Così, dopo tanta espansione del sé, si ha bisogno di silenzio. Non quello di quando si pensa e di pensieri schiamazzano come bambini al parco che litigano per chi deve scendere per primo dallo scivolo. Non quello della morte, in cui si quietano le colpe e le sconfitte sono vittorie, e a volte al contrario. Non quello di certe anime offese che nessun silenzio può destare. Bisogno di silenzio. ed io comincio a far scorrere le labbra sulla tua pelle tesa. Il silenzio del succhiare, morbido e lento. Misurare la tua colonna di carne con il centimetro della mia lingua. Disegnare la tua forma con passaggi circolari, in silenzio di quando io sto in silenzio. E coltivo pazientemente il mio piacere, insieme al tuo. Un fremere di papille. Ascoltare il tuo sangue fluire. Il plesso venoso infiammarsi. Accalorare le pareti in cerca di sollievo nella mia bocca rovente. Il silenzio di quando tu taci e le tue mani parlano, imprimendo al mio andare un ritmo sempre più veloce. Lasciami tacere ancora un po', che quando è tutto finito i pensieri ricominciano ad accoppiarsi. Lascia che io riposi nel silenzio, mentre adatto la mia bocca, arrotondando la gola in modo da sentire la carnosità esasperata della punta. Un abbracciarsi di mucose febbrili. Non costringermi a soli coiti di parole sussurrate all'orecchio. Lascia che nel silenzio la mia bocca faccia l'amore con te. Ci sono pensieri che non dovrebbero essere pensati, e se pensati non detti almeno, se anche detti mai scritti, se scritti mai letti con la propria voce, il proprio tormento, così dammi un motivo per quale per fare quello che sto facendo adesso, un buon motivo soltanto, dammene uno!